Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Di nuovo in studio, 7:46 minuti di questo mercoledì 6 settembre, stavo già andando a novembre, no, anzi godiamoci un pochettino questo scampolo d'estate, seppur con abbassamento della temperatura, ma decisamente gradevole anche come colori questo mese, il lunedì dell'anno come lo definisco, ma che lascia ancora spazio ad appuntamenti come quello che andrò a presentare, assolutamente interessanti. Burattini Bologna, beh, è un'organizzazione che porta avanti una tradizione importante, storica, artistica, artigianale, di creatività, di cultura, con un messaggio oltre che per continuare quella che è, come ho già detto, la tradizione, anche per intersezioni con illustrazione e letteratura. Letteratura, una protagonista intanto sarà l'Alice di Carroll, protagonista sarà la nostra città, ovviamente tante voci che andranno a dare ai protagonisti un'identità ulteriormente incisiva, ma intanto quando sarà? Sarà domani e venerdì per quanto riguarda la corte del Palazzo da Curzio, dove Alice nel Paese delle Meraviglie, e vedremo quale sarà questo Paese delle Meraviglie, e sentiremo anche chi saranno ulteriori protagonisti, oltre che, come ho già detto, la tradizionale realtà delle maschere bolognesi, insomma un'unione di tante emozioni, di arte, di cultura, che vedrà Riccardo Pazzaglia, il direttore artistico di Burattini a Bologna, impegnatissimo per trovare un'Alice nel Paese delle Meraviglie, e insomma non dico smarrita, ma anche in conversazione con queste voci e per conoscere ancor meglio la nostra bellissima città. Sentiamo allora di che si tratta, diamo approfondimento a questo Last Minute per le due giornate di domani e domani l'altro, ore 20 e 30 mi pare, non vorrei dire, ma adesso sentiremo con più precisione e magari mi correggo, e per le informazioni logistiche avrò modo di essere più preciso. Sentiamo le parole di Riccardo Pazzaglia. Diciamo che tutto è nato proprio dopo la morte di Wolfango, per omaggiare la sua arte con un Amleto burattinesco che andò in scena proprio nel cortile d'onore di Palazzo da Curzio, riscuotendo un grande successo. A distanza di tempo, anche perché in mezzo ci sono state due pandemie, quindi abbiamo dovuto, dobbiamo, coinvolgendo la figlia di Wolfango, la curatrice di eventi culturali Alighiera Peretti Poggi, procrastinare il debutto di questa Alice, di questo nuovo omaggio. Se per Amleto è stato un concretizzare un sogno di Wolfango, proprio precisamente architettato da lui per scene, costumi, ideazione dei volti dei personaggi che poi ho realizzato, con Alice abbiamo voluto replicare l'esperimento riuscito e lavorare, giocare con le illustrazioni che lui fece nel 2012 per la casa editrice Le Grafiche dell'Artiere, che pubblicò una lussuosissima edizione appunto del classico di Carroll. Questo è un'occasione per vedere i burattini in uno spettacolo molto diverso dal solito, dal consueto, anche se, come sempre per Burattini a Bologna, che è l'associazione di cui sono il direttore artistico, io come burattinaio inserisco nelle mie rielaborazioni Fagiolino Sganatino, il dottor Balanzone, che proprio all'inizio dello spettacolo si incontreranno, o il caso di dire si scontreranno, con il reverendo Dodgson, ovvero proprio l'autore Lewis Carroll. E da lì si inizia in questo viaggio di Alice, che ritroveremo in burattino, ispirato all'illustrazione di Wolfango, si dipana tutta questa avventura che citerà molto luoghi, usi, costumi della città di Bologna, che nella mia rielaborazione non viene detto esplicitamente, ma si capisce, è il Paese delle Meraviglie. Ci sono tanti riferimenti che io ho colto nel classico di Carroll, che sono riconducibili anche alla città di Bologna, e ovviamente non me le sono lasciate sfuggire. Volpango, scomparso nel 2017, artista che troviamo anche sulla parete di Sala Savonuzzi a Palazzo da Curzio, è appunto un illustratore, pittore e creativo, è stato molto importante, anche particolare, unico direi. E per quanto riguarda questa realtà artistica dell'illustrazione e il movimento, l'aspetto di motilità con Burattini a Bologna, per le due serate che stiamo presentando vedranno un dialogo quanto mai particolare tra Alice nel Paese delle Meraviglie di Carroll e la nostra città. Le voci, la bellezza poi appunto di tutte le storie che siamo andati ad anticipare già da tempo con l'Amleto, tra l'altro non sapevo di queste rappresentazioni e ne sono ben contento, fra l'altro, che nella nostra città si mantenga viva l'aspetto culturale in ogni rappresentazione, la vicinanza non solo con la città ma anche con un pubblico che è tutti i tempi, perché ovviamente l'aspetto intergenerazionale è fondamentale in tutto ciò. Porta Burattini a Bologna a vedere l'aspetto narrativo con delle voci che tra il Brucaliffo, il Bianconiglio e tutti quelli che conosciamo nella narrazione di Carroll, improvvisamente catapultati nella città di Bologna. Ma sentiamo nello specifico chi saranno questi protagonisti. Vi sono anche degli ospiti speciali, delle voci per questi personaggi? Sì, sicuramente non li ricorderò tutti perché non ho sott'occhio la locandina, però sono davvero tante le persone che hanno contribuito ad arricchire il reparto voci dei nostri attori, delle nostre attrici burattinaie e burattinai. avremo anche la voce di Vittorio Franceschi nella citazione dell'Amleto, essere non essere, che compare proprio come citazione grafica nelle tavole di Wolfango, come compare una delle altre sue grandi passioni, che è la Divina Commedia, con la voce di Saverio Mazzoni, Vittorio Franceschi per Amleto. Abbiamo un brucaliffo molto divertente realizzato con la voce di Duilio Pizzocchi nell'interpretazione del suo Cactus, che abbiamo abbinato al brucaliffo, e poi tantissimi altri personaggi, e con, grazie alle videoproiezioni, persino Wolfango prenderà parte alla rappresentazione. Poi ci sono voci come per esempio quelle dei nostri burattinai, Alberto Beltramo, Grazia Punginelli, Roberto Zambelli, Michele Zaccaria, che troveremo anche nei panni di Lewis Carroll in persona, proprio nell'apertura di spettacolo, e poi Roberta Nanni, Fausto Carpani del Ponte della Bionda, e Carpani con il gruppo Emiliano ha curato anche, con la registrazione di alcune cante bolognesi, alcuni momenti musicali, e quindi ci sarà la musica popolare ma anche la musica classica, con un estratto dalle quattro stagioni che proprio scandiscono il tempo dei mesi, come l'orologio scandisce i giorni e non le ore, quello del cappellaio matto, e come invece quello del bianconiglio ci induce ad andare sempre molto in fretta. Io mi sono ritrovato molto nel personaggio del coniglio, perché è da marzo che dell'orologio ho in mano il telefono, perché è sempre tardi per riuscire a fare tutto questo popò di materiale per questa messa in scena. Abbiamo costruito più di 60 figure nuove e verranno tutte alternate in scena in un'ora, un'ora e 10 di spettacolo. Beh, intanto allora già vi anticipo i complimenti, perché trovare una Bologna paese delle meraviglie, vedere Fagiolino, Sganapino e il dottor Balanzone in dialogo con Alice di Carroll, personaggi che vanno a interpretare tutto il contorno di questi protagonisti, un allestimento in una sede come la Corte d'Onore di Palazzo da Curzio, una grande chiusura per Burattini a Bologna, 7-8 settembre alle ore 20:30. Grazie al direttore artistico Riccardo Pazzaglia per Radio Città Fujiko, e appuntamento al prossimo spettacolo allora. Grazie. Grazie, che potete trovare sul sito burattiniabologna.it, che è la nostra associazione. Evviva, ho indovinato. Sono stato preciso, ecco, cosa che non mi capita molto spesso con le date e gli orari. È alle 20:30, domani e domani l'altro, Corte di Palazzo da Curzio e Burattini a Bologna, la chiusura con Alice all'interno della nostra città, accolta da Balanzone, Sganapino, Fagiolino, i personaggi, le voci, le illustrazioni, Wolfango, il maestro burattinaio Riccardo Pazzaglia. Ecco, insomma, beh, onore al merito, un grande lavoro, quindi l'appuntamento già l'ho ribadito. Vi lascio con un po' di musica, Silvia Albertazzi e Stefano Calanchi sono già in redazione, subito dopo la pubblicità il voltiamo pagina. A tra poco, buon ascolto.